Bordo Campo di Dario Ricci. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz. Padre Edoardo Henrique Braga, professione sacerdote, sacerdote brasiliano, ma in particolare allenatore della squadra del collegio brasiliano che prende parte alla terza edizione della Clericus Cup, la Coppa, il torneo di calcio aperto e riservato a 386 fra sacerdoti e seminaristi. Padre Braga, siete la grande novità di quest'anno perché, insomma, i brasiliani, e ce l'ha insegnato la sconfitta che ha subito la nostra nazionale recentemente a Londra, sono i maestri del calcio. C'è parecchia curiosità per vedere come ve la cavate anche voi sacerdoti col pallone. Mi è piaciuto molto. Alla fine della partita Brasile-Italia, la parola dell'allenatore Lippi d'Italia, no? Ha detto con molta tranquillità che oggi il Brasile è più forte di noi, però tra un anno e mezzo vediamo. È proprio questo, no? Il calcio è qualcosa di dinamico, no? Quando si arriva al mondiale incomincia tutta un'altra storia. Intanto il vostro torneo, in particolare questa Clericus Cup, per voi brasiliani non è iniziata benissimo perché 2-1 contro il Mater Ecclesiae, campione in carica. Sì. Ha dovuto un po' urlare nello spogliatoio, padre Braga, immagino. Sì. Bene, ci sono alcune cose da considerare. Prima cosa che questi ragazzi del Mater Ecclesiae sono bravissimi, no? La informazione che ho è che nella prima edizione della Clericus Cup sono arrivato in terzo posto, poi sono stati proprio i campioni. Penso che abbiamo fatto una buona partita, evidentemente c'è una differenza grande di età e anche di allenamento. Ho l'informazione che loro giocano pallone ogni giorno, sono bravissimi ragazzi, no? E noi facciamo il nostro allenamento una volta a settimana o due volte, no? Però penso che la squadra si è comportato bene. D'altra parte, padre Braga, si sa che voi brasiliani in difesa non siete poi un granché. Senta, le chiedo anche, questa Clericus Cup, arrivata ormai al terzo anno, insomma, fa sempre più parlare di sé, sempre manifestazione che, insomma, attira l'attenzione di noi media per tante curiosità. Non c'è il rischio che stia diventando una cosa un po' troppo seria? È proprio così, eh? Questo posso dire perché anche nel seminario, no? Avevo un rettore che una volta ha detto: nessuno si fa male in questo seminario, vanno in pastorale, lavorano, però nel calcio uno ha rotto il braccio, un altro ha rotto il piede, no? Perché sembra che lì è un momento che viene la passione fuori e uno vuole vincere, allora è umano, no? Perché anche i sacerdoti hanno questo atteggiamento umano e vogliono vincere, vogliono fare il meglio, no? Però è stato bello anche alla fine della partita, quando tutti si erano radunati e hanno fatto la preghiera. Fabio, che è un sacerdote nostro, ha fatto una preghiera, abbracciato con altri compagni brasiliani, anche ragazzi del Mater Ecclesiae, e abbiamo pregato insieme. Avete un po' istituito questo terzo tempo con la preghiera, a cui si è unito anche l'arbitro Farina, insomma, arbitro della Serie A. Crede che questa sia una piccola lezione che arriva anche al calcio professionistico, che invece questo terzo tempo non è riuscito a copiarlo neppure nei modi meno efficaci dal rugby? Sì. È stato bello quello, no? Perché è vero, uno ha la passione, gioca, ha la voglia di vincere, però alla fine di tutto deve tranquillizzarsi e vedere che è lo sport, uno ha vinto e basta, no? È arrivato il momento di ipotizzare una Clericus Cup aperta anche a religiosi di altre religioni, perché in fondo farla solo per i sacerdoti cattolici? Bene, il nome già parla di clericus, no? Di sacerdoti, però penso che sempre deve avere questa apertura, no? Il Concilio Vaticano II ci ha parlato molto di comunicarci, di parlare con altre religioni, di spingere la Chiesa a tutto il mondo, no? E questa è una cosa molto bella. Prima arrivare ai cristiani, no? e tra questi gli ortodossi sono più vicini di noi, ma anche i nostri fratelli protestanti, evangelici, che hanno la Bibbia e soprattutto il Nuovo Testamento vicino a noi, e tutti quelli che cercano nella religione Dio, no? Penso che sempre si può avere questo atteggiamento di apertura con altre religioni. Senta, padre Braga, faceva riferimento all'importante lezione del Concilio Vaticano II. Mi permetta la battuta. Sì. Lo convocherebbe lei un vescovo lefevriano, visto le polemiche aspre e dure che ci sono state anche in questo periodo, proprio sui temi più tragici della nostra storia contemporanea, come la Shoah, ma anche e soprattutto sull'insegnamento del Concilio? Io ho avuto un grande onore e una grande gioia di lavorare con un cardinale durante 7 anni come suo segretario, che è il cardinale Sales del Rio de Janeiro, e lui con il cardinale Castiglione sono andato giustamente in una regione del Rio de Janeiro, in entroterra, per fare una unione nuovamente, di riprendere l'unione con un gruppo che in principio era unito a questa chiesa chiamata tradizionalista, no? Si deve ricordare questo, la Chiesa ha celebrato in questo rito tanti anni, no? Allora non è che loro sbagliano completamente, no? Devono certamente sentire il Concilio Vaticano II, devono sentire la voce della Chiesa che cerca di rispondere a un tempo nuovo, a un nuovo momento, però non è che si distrugge il passato. Non è così, no? Le chiedo ancora, c'è stata grande polemica in questi giorni per le dichiarazioni fatte dal Santo Padre durante il suo viaggio in Africa sull'utilizzo del preservativo come strumento efficace nella lotta all'espansione dell'AIDS. Cosa ne pensa lei di questa tematica? Lei che ha vissuto, immagino, questo problema dal vivo tra i poveri della favela, tra la povera gente. Come già ti ho detto, sono del Rio de Janeiro e lì c'è il carnevale, no? E il governo fa tutta una pubblicità con paura del carnevale, no? Anche per difendere di questa malattia, allora fa la pubblicità favorevole a questo uso di questi preservativi, no? E evidentemente scappano del problema centrale, non vogliono veramente fare che la gente cresca, nel senso anche spirituale, umano, che è quello che il Santo Padre parla, va proprio alla radice del problema. Se ci sono queste malattie, sono perché? Perché ha un uso diverso del sesso che sta d'accordo con la natura, con che è creato. Quando parliamo di sesso, parliamo anche di riproduzione. Parliamo di qualcosa che doveva stare dentro del matrimonio, che sta unito all'amore, a responsabilità, a tante cose che si realizzano dentro del matrimonio. Non è però una posizione troppo idealistica, poco pragmatica, tra la povera gente, tra gente dell'Africa o del Brasile, questa filosofia prende piede? Ma la cosa è questa, no? Questo è cresciuto sempre di più perché? Perché sempre si allontana dei fondamenti della vita e della natura delle cose. Perché? Perché uno viviamo in una società che il piacere è diventato una cosa centrale, assolutamente al centro, no? Allora uno non vuole pensare nelle ragioni, perché non si vuole più guardare i principi. In Brasile particolarmente vivo è il problema delle sette, no? Che si allontanano dall'ortodossia cattolica. Oggi purtroppo c'è la gente anche che non ha una intenzione veramente retta, una intenzione veramente giusta, no? Cercano di prendere la buona fede delle persone con falsi miracoli, con promesse che non possono essere veramente riusciti. Per esempio, ho lavorato con cardinale, vi ho detto, no? E c'era lì una signora che era una segretaria, una volta ha preso un tassi per tornare a casa, e lei mi diceva che il tassista gli ha raccontato una storia di due ragazzi che stavano sul suo tassi e ridevano tanto, ridevano, scherzavano. Un bel momento lui ha domandato: perché ridete tanto? E loro hanno detto: no, noi siamo due artisti, dobbiamo fare finta di essere indemoniate di essere prese proprio dal diavolo, perché il pastore deve togliere il diavolo di noi, perché la gente voleva avere qualcosa, vedere qualcosa di straordinario, vedere un miracolo. Purtroppo lì ci sono queste sette che giocano anche con un modo economico, con il sfruttamento, la fede della gente. Tra i grandi calciatori ci sono molti atleti, cosiddetti atleti di Cristo, cui appartiene anche un idolo del calcio mondiale come Kakà, che manifestano apertamente, no, la loro fede e la testimoniano attraverso gli stadi, attraverso delle magliette, attraverso i comportamenti. Ecco, come vede lei questo binomio tra calciatori e fede? Non c'è il rischio che più che fedeli ci si trovi poi a cercare dei testimonial della fede? Questi calciatori vogliono manifestare questa gioia di avere una testimonianza dell'esistenza di Dio, che Dio è presente nella loro vita, e Kakà è giustamente di questa seta, di questa religione, no? Non voglio dubitare della sua onestà, della sua spontaneità, della sua fede. Veramente è un ragazzo, tu vedi che quando fa una rete guarda in cielo, no? Alza le braccia, fa un gesto che ringrazia il Signore. Questo tutto è molto, molto, molto bello, no? Riconosce il Signore, no? Però c'è tutta questa confusione nel mondo della fede, no? Penso che la cosa importante è riconoscere questa purezza del cuore di questa gente semplice, che nella sua maggioranza i giocatori di calcio hanno questa fede e hanno questa purezza e vogliono soprattutto ringraziare il Signore per tutto quello che sono riusciti a fare. Anche perché, mi conceda la battuta, in fin dei conti, se poi tra l'altro uno di questi campioni entrasse in seminario, sarebbe anche convocabile per la Clericus Cup. Senz'altro. Allora grazie Padre Braga e buona Clericus Cup. A bordo campo. Have you ever seen a one trick pony in field so happy and free? If you've ever seen a one trick pony, then you've seen me. Veramente bella, veramente bellissima questa canzone, questa ballata che Bruce Springsteen ha scritto e dedicato al film The Wrestler, Leone d'Oro, all'ultima mostra cinematografica di Venezia, film che ha rilanciato anche il grande Mickey Rourke come attore protagonista. E film che anche ha acceso i riflettori su quello che è il mondo del wrestling, che conta anche in Italia tantissimi appassionati. E allora abbiamo ospite qui a bordo campo proprio quello che è stato il miglior wrestler italiano del 2008. Buongiorno all'imperatore Caio, vero? Buongiorno a tutti, esatto, proprio io. Imperatore Caio, che è il nome d'arte chiaramente sul ring, che nella vita di tutti i giorni è Nuri Ayaci. Qualche dato biografico: nato esatto il 12 luglio del 1984 a Como. Ecco Nuri, che impressione ti ha fatto questo Mickey Rourke che definisce la parabola di questo campione del wrestling americano che poi cerca di rimanere sul ring anche quando ormai, insomma, l'età avanza, gli acciacchi si sentono e la vita prende tutta un'altra piega rispetto ai trionfi giovanili? Eh sì, è un film che mi è piaciuto molto, anche Mickey Rourke in grande spolvero, film molto ben studiato che analizza proprio il mondo del wrestling e anche fa vedere un po' anche come può essere la vita, tipo dalle stelle alle stalle, come si dice. Tu invece come hai scoperto il wrestling, che sappiamo è una disciplina o uno sport, e questo è ancora un capitolo tutto aperto, ma insomma sì, una disciplina, è uno sport spettacolo, diciamo, che negli Stati Uniti ha chiaramente già una lunga tradizione, ma tutt'altro discorso è in Europa e soprattutto in Italia. Tu come sei arrivato sul ring? Io ero un appassionato, seguivo in televisione anche tramite videocassette il wrestling americano, l'allora WWF, e poi tramite internet ho conosciuto questa realtà italiana che è l'Italian Championship Wrestling, ICW, e tramite internet l'ho contattati e ho iniziato i miei primi allenamenti, all'inizio per curiosità, devo dire, ero molto interessato a scoprire cosa c'era dietro, come facevano le grandi stelle che vedevo in televisione arrivare sul ring, Poi mi sono appassionato e da semplice passione è diventato anche un lavoro, quello che sto intraprendendo adesso. Lavoro che immagino non possa essere a tempo pieno. Tu quale attività svolgi? No, al momento no, io sono un consulente per una ditta, però l'obiettivo è proprio quello di riuscire a fare wrestler a tempo pieno in un futuro, spero accada. Chiaramente per fare il wrestler ci vuole, credo, senso dello spettacolo, ma anche il physique du rôle. Come ti alleni, come lavori? Ma tantissima palestra, 3-4 volte a settimana, l'alimentazione è molto importante proprio per mantenersi in forma e anche l'allenamento tecnico sul ring è molto importante per ridurre infortuni, per ridurre il rischio che c'è in questo sport. E anche il fisico, oltre a essere importante a livello estetico, perché siamo sul ring, dobbiamo essere guardabili, per così dire, ma è anche importante per evitare infortuni. Infatti si cade molto sul ring, il ring è durissimo, ci subiscono colpi veramente pesanti e serve proprio per evitare di avere conseguenze gravi. Quanto c'è di vero in questo wrestling? È possibile che vi date tutte quelle legnate, tutte quelle mazzate, prendete le sedie a bordo ring, vi tirate da una parte all'altra sulle corde ed sia tutto vero? Allora, siamo atleti preparati, ogni lottatore per salire sul ring intraprende un percorso che dura anni, però non è che si sale sul ring il giorno dopo, quindi c'è una preparazione sotto, ci sono delle tecniche, ci sono delle scuole dove ti insegnano a riuscire a restare sul ring, a non farsi male. È uno sport spettacolo al 50% perché è importante la parte intrattenimento, le entrate, i costumi per attrarre il pubblico, i più curiosi, ma è uno sport per il resto del 50% perché le cadute sono vere, le mosse sono vere, c'è un'intensità sul ring, si subiscono dei colpi duri. Posso dire che è uno sport al 50% e uno spettacolo al 50%. Vedendo il film ci sono anche delle scene in cui Mickey Rourke fa vedere quali sono i trucchi del mestiere, no? Ci si parla prima dell'incontro, ci si mette in qualche modo d'accordo sia sulla trama sia spesso sull'esito finale del match, si usano anche degli espedienti per colpire il pubblico e impressionarlo, no? Colpisce ad esempio quella scena in cui Rourke usa una piccola lametta per ferirsi durante il match, far uscire del sangue, no? Per accentuare l'aspetto drammatico del match. È così anche nella realtà? Succede così anche? Non è sempre così, dipende dalle realtà. Il wrestling, da quello che vedo io, da quello che penso, è uno sport e lo pratico proprio perché è uno sport. Ci sono delle realtà che mettono la nostra disciplina sul punto di vista spettacolare, per intrattenere il pubblico, però in America tante seguono la strada di quello che si è visto nel film. In Italia no, invece, uno sport a tutti gli effetti, saliamo sul ring per vincere, per schienare il nostro avversario, non ci mettiamo assolutamente d'accordo. Da un punto di vista, il film è stato un po' un trampolino di lancio, però ha fatto vedere anche cose non proprio vere e che non rispettano effettivamente quello che è il mondo del wrestling. Altro tema caldo rispetto a questa disciplina è sempre quello del doping, no? Anche The Wrestler rende evidente, no, quanto il campione o ex impersonato da Mickey Rourke, per mantenersi al vertice, faccia ampio ricorso a steroidi, anabolizzanti e chi più ne ha più ne metta. Quali sono i controlli che fate? Quanto è diffuso questo problema nel vostro mondo, che ha stretto contatto poi con le palestre, anche qui confini labili? Ma guarda, il nostro mondo è purtroppo pieno di gente che fa uso di sostanze stupefacenti, purtroppo è un cancro che c'è e bisogna conviverci, cercare di lottare contro. All'interno del wrestling italiano siamo una federazione, l'Italian Championship Wrestling, che sta cercando un po' di mettersi in luce, crearsi un suo zoccolo duro, dei fan. Assolutamente non facciamo uso di anabolizzanti, abbiamo delle visite periodiche, come in tutti gli sport, tramite la federazione, per controllare, cercare proprio di combattere questo. Purtroppo in America e in tante altre federazioni è difficile combatterlo proprio perché i controlli costano, purtroppo anche i lottatori magari nella vita hanno dei problemi eccetera, quindi scelgono la strada più facile, invece che allenarsi preferiscono prendere sostanze per aiutare crearsi il fisico così. L'altro aspetto che incuriosisce del wrestling è la sua grandissima popolarità presso i giovanissimi, i bambini. Qual è la vostra target? Ecco, il vostro target, e quanti siete anche? Perché insomma, del fenomeno americano bene o male abbiamo l'ordine di grandezza, ma in Italia qual è la dimensione del fenomeno wrestling? Ma abbiamo sfruttato anche noi la grande ondata di pubblico che ci è stata portata dal boom del 2004-2005 grazie alla WWE. Il nostro target di pubblico sempre, anche il nostro, va dagli 8 ai 15 anni, abbiamo molti bambini ai nostri spettacoli, però negli ultimi anni abbiamo anche ventenni, trentenni che ci seguono in tutti gli show in tutta Italia. E in Italia siamo, la nostra federazione di CW, siamo circa una centinaia di lottatori distribuiti in 13 poi di allenamento, e ci stiamo ancora allargando, siamo in forte espansione, speriamo in un futuro che ritorni questo grande boom e ritorni le grande folle che avevamo qualche anno fa. Si guadagna a fare il lottatore? Sicuramente sì, se no non lo faremmo. Con tutti un ordine. I costi che si prendono, i livelli di cifra è un po' duro dirlo, però diciamo che non riusciamo ancora a campare esclusivamente di wrestling, però ci stiamo lavorando e siamo sulla buona strada. Al tempo stesso però c'è anche chi chiaramente condanna questo sport spettacolo perché ne vede un manifesto della violenza, no? Per quelle che sono spesso anche gli eccessi che si vedono sul ring, organizzazioni dei genitori che protestano, spesso il wrestling viene oscurato in TV per quelli che sono gli aspetti proprio più cruenti di questo sport spettacolo. Qual è la linea della federazione? Proponiamo assolutamente un prodotto esclusivamente per i giovanissimi, quindi la violenza è limitata e poca, assolutamente solo sul ring, non ci sono eccessi, non ci sono vetri rotti, non c'è sangue assolutamente. Purtroppo ci sono tante famiglie, tante associazioni che sono contro il mondo del wrestling in generale. Vi invito solo a guardare cosa fanno vedere nelle fasce protette in televisione alle 2, alle 3 del pomeriggio, dove tutti i bambini sono davanti alla televisione, ci sono anche scene di omicidi, quindi non mi sembra assolutamente giusto criticare il wrestling. Parliamo sempre di wrestling, inteso come il grande wrestling americano, ma c'è tutto un filone fatto anche di personaggi, storie, campioni che invece arriva dall'estremo oriente. Ricordo nella mia infanzia gli incontri di Antonio Inoki, di Tiger Mask, grandi campioni di questo tipo. Imperatore Caio, qual è la differenza tra i due mondi del wrestling? Allora, il mondo americano è un mondo del wrestling che ha più un'impronta spettacolare, badano di più le entrate, i costumi, alla bellezza delle mosse, mentre il mondo giapponese, che è una tradizione che ormai quasi 80 anni, è più visto come uno sport in Giappone, una disciplina che viene apprezzata da tutti proprio come uno sport al 100%. Si va sul ring per battere il tuo avversario, non servono, il pubblico non ama gli addominali scolpiti, anche un po' di pancetta fa più scena, diciamola, è più rispettato, mentre in America è più visto come quasi una buffonata, come un circo, mentre non è assolutamente così nel resto del mondo. Qual è l'immagine, la sequenza che più ti ha colpito di The Wrestler? Il finale mi è piaciuto molto, in cui fa capire che il wrestling era tutta la sua vita, quindi ha deciso di voltare le spalle a tutte e andare sul ring pur rischiando la vita. Imperatore, c'è un modo in cui saluti i tuoi tifosi o lanci la tua mossa decisiva per chiudere i tuoi incontri? Faccelo sentire. Sì, volevo solo dire di seguirci sul nostro sito www.icwwrestling.it o sul mio, che è caiowrestling.com, e ricordarsi che Dio perdona, Caio no. Allora, Imperatore Caio, sperando nella tua clemenza, buon wrestling, in bocca al lupo sul ring e a bordo ring. Ok, grazie mille. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Filippo Aureggi in regia. Potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci sul sito www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.